un elemento che va tenuto in considerazione anche quando si leggono alcuni studi che sono usciti sulla distribuzione dei voti ai partiti per classe sociale, che ci dicono cose interessanti, però vanno anche riparametrate sulla base appunto dell'astensione. Cioè, quando si dice ad esempio che, non so, leggevo all'incirca il 20-21-22% dei lavoratori votano Fratelli d'Italia e che quindi Fratelli d'Italia è il partito più votato dai lavoratori, e poi viene il PD, poi viene il Movimento 5 Stelle, eccetera eccetera, è un dato significativo, però va anche relativizzato, nel senso che significa che tra i lavoratori che sono andati a votare il 21% ha votato Fratelli d'Italia, non che i lavoratori hanno votato Fratelli d'Italia. Ora, se diciamo il dato generale sull'affluenza alle urne è del 63%, io immagino che, diciamo, i proletari che sono andati a votare siano tra il 40 e il 50%, quindi alla fine il 20% di proletari che vota Fratelli d'Italia significa, diciamo, l'8-10% dei lavoratori totali, insomma. Quindi, così come è uscito anche questo studio che dice che i giovanissimi, il segmento principale dei giovanissimi, ha votato come primo partito il partito di Calenda, insomma, quindi questo mi pare, diciamo, che debba essere preso in considerazione. Dopodiché ci sono alcuni elementi qualitativi che quelli effettivamente sono reali, insomma. Ieri Daniela, mia compagna, parlava con una nostra amica che è una impiegata tecnica della TIM, che tra l'altro sta facendo, diciamo, credo 10 ore di cassa integrazione a settimana, mentre la TIM qui su Roma sta assumendo, e questa amica le diceva che lei ha votato la Meloni, e tra diciamo le varie ragioni per cui ha votato Fratelli d'Italia c'è che Fratelli d'Italia è l'unica che difende le piccole imprese che sono tartassate dallo Stato e che pagano troppe tasse. E qui l'elemento che viene fuori, diciamo, è la scissione, diciamo, tra la tua condizione sociale, diciamo, e la coscienza di classe. D'altra parte, io mi sono seguito un po' la campagna elettorale di Fratoianni, e Fratoianni è uno di quelli che è andato a fare campagna elettorale appunto con le bollette delle piccole imprese. Non l'ho mai visto sventolare la bolletta di una famiglia, diciamo, di lavoratori, dicendo questi qua con gli stipendi che hanno non riescono ad arrivare alla fine del mese. Quindi, diciamo, questo mi pare un elemento. Dopodiché, il dato più eclatante, ne parlavo con Anton Giulio, è che alla fine tutto questo enorme successo del centrodestra, se vai a contare i numeri, non c'è stato. In realtà il successo di Fratelli d'Italia consiste sostanzialmente in una redistribuzione all'interno del centrodestra dei voti. Il centrodestra prende sostanzialmente gli stessi 12 milioni di voti che aveva preso 5 anni fa, credo che prenda rispetto al 2018 300.000 voti in più. Ma il dato più significativo è il travaso di voti che c'è in particolare dalla Lega nei confronti di Fratelli d'Italia, che fa sì che come dire, la Meloni sia proiettata, diciamo, verso Palazzo Chigi. E dopodiché l'ho scritto anche nell'editoriale che abbiamo pubblicato sulla newsletter sulle elezioni. Mi pare che l'altro dato significativo è che sostanzialmente i partiti che sono più penalizzati sono quelli che hanno governato. I 5 Stelle, nonostante abbiano ridotto le perdite, perché poi Conte è stato, diciamo, abile, bisogna riconoscerlo, nel presentarsi come, diciamo, leader di un partito di opposizione, però essendo stato l'unico partito che ha governato dall'inizio alla fine della legislatura, ha comunque perso quasi 7 milioni di voti, è quello che diciamo è stato più penalizzato, e gli altri partiti hanno perso quasi proporzionalmente rispetto al numero di governi a cui hanno partecipato in questa legislatura, che sono stati tre. Il PD alla fine, tutto sommato, se la cava pure perché, diciamo, per come ha gestito la legislatura e soprattutto come ha gestito la campagna elettorale. Poteva anche perdere, diciamo, la metà dei voti, invece non li ha persi. Dopodiché mi sembra che la partita più interessante rispetto all'Italia oggi si giochi appunto non tanto sulle analisi di quello che è successo alle elezioni, perché mi sembra che alla fine si tratti insomma di uno schema che si ripete in modo abbastanza uniforme, insomma, dove appunto la differenza sta che di solito chi va al governo perde, quindi si invertono i ruoli tra un partito e l'altro, tra una coalizione e l'altro. No, l'aspetto interessante mi sembra soprattutto che cosa succederà adesso, perché diciamo con grande scorno anche di tutti quelli che evocavano le camicie nere a Palazzo Chigi e diciamo, no, diciamo sfondamento antidemocratico, eccetera, eccetera. In realtà la Meloni mi pare che più intelligentemente anche di Salvini, perché comunque ha, diciamo, un po', come dire, la scuola della Prima Repubblica, nonostante sia giovane, mi pare abbia capito che governare in questa situazione è un'impresa, diciamo, da far tremare le vene e i polsi, e che quindi stia cercando di gestire la situazione in modo molto saggio e molto prudente, e lanciando segnali rassicuranti, diciamo, nei confronti delle classi dominanti e anche della sua stessa coalizione. Ad esempio, tutta questa discussione che c'è, diciamo, sulla presenza di tecnici nel governo, mi pare che sia un segnale che lei sta dando, perché è chiaro che i tecnici hanno anche una funzione rassicurante nei confronti, diciamo, sia dell'establishment nazionale, sia soprattutto di quello europeo, che è quello che le può dare anche più problemi. Nella prima uscita che ha fatto, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri a Milano, però sostanzialmente ha detto, insomma, non mi ricordo più le parole, però insomma il senso era: non governeremo a colpi di maggioranza. Quindi è evidente che lei da una parte deve gestire la propria coalizione, cercando di mantenere un minimo di compattezza e quindi cercando anche di contenere le sfuriate di Salvini, che se viene, come dire, ridimensionato troppo, rischia di diventare una scheggia impazzita, e anche di approfittare del malessere che la crisi, un precipitare ulteriore della crisi economica, le sanzioni causeranno insomma, sulla piccole e medie imprese del nord, insomma, che lui può cavalcare in qualche modo per cercare di rafforzarsi e anche di prendersi delle rivincite se, diciamo, viene trattato troppo male. Citavo nell'articolo che ho scritto la frase di Crosetto, che a caldo il primo commento che ha fatto è stato: la coalizione ha retto, e che diceva agli alleati: ora non è il momento di fare giochini. Quindi è chiaro che adesso è difficile capire che cosa succederà, però in qualche modo nessuno ha interesse a creare una contrapposizione nel centrodestra, creare una contrapposizione frontale col PD e coi partiti di opposizione. Renzi e Calenda mi pare che, diciamo, si siano già, come dire, offerti, no? E si siano già mostrati collaborativi. L'unica formazione che da questo punto di vista potrebbe creare qualche problema possono i 5 Stelle, che possono giocare un po' a fare i battitori liberi, però insomma poi alla fine sto Conte a fare il rivoluzionario non ce lo vedo, nel senso che anche se lo volesse fare, diciamo, non ha le physique du rôle per svolgere quel ruolo, secondo me. E in più si trova con un problema che di cui in gran parte deve ringraziare Grillo, nel senso che con questa storia dei due mandati lui si trova sostanzialmente due dei gruppi parlamentari di perfetti sconosciuti che non ha nessuna idea di come si potranno comportare di fronte alle dinamiche parlamentari anche del richiamo della foresta, diciamo, del sottobosco del potere, che abbiamo già visto nelle altre due legislature, che comunque e 5 Stelle gli hanno fatto parecchi danni. Quindi questo mi sembra l'aspetto più interessante, perché questo potrebbe significare che soprattutto se una qualche reazione sociale nei prossimi mesi si manifesterà, se ci sarà questa ulteriore fiammata dell'inflazione, questa crisi legata ai prezzi, se ci saranno licenziamenti, cassa integrazione, la guerra, mi pare che siamo in una situazione di perdita di controllo, quindi può succedere un po' di tutto, quindi si tratta di capire, però è chiaro che credo che non ci sia oggi nessuna maggioranza che è in grado di gestire questa situazione senza un minimo di collaborazione da parte delle opposizioni, per cui non ci sarà almeno inizialmente un governo di unità nazionale esplicito, ma il rischio è che ci sia un governo di unità nazionale di fatto, un po' come è stato anche col governo Draghi, perché diciamoci la verità, Fratelli d'Italia ha fatto opposizione per finta in questo anno e mezzo, nel senso che su tutte le decisioni strategiche di fatto, diciamo, non ha mai fatto mancare il suo voto, o comunque ha fatto in modo che il governo non fosse mai in minoranza, insomma. Del resto sto Crosetto, che è un po' il consigliere politico, il Richelieu, diciamo, della Meloni, è un esponente, diciamo, dell'establishment, insomma, è il presidente dell'associazione di categoria di Confindustria, che riunisce le imprese del settore delle armi, diciamo, del settore aerospaziale, insomma, quindi questo mi pare. Quindi anche se il travaso di voti dalla Lega a Fratelli d'Italia ha significato che Fratelli d'Italia, diciamo, ha in larga misura sostituito la Lega nella rappresentanza sociale della piccola borghesia, in particolare del nord, perché al sud invece in qualche modo il Movimento 5 Stelle ha confermato, no, questo suo ruolo, però è chiaro che una volta che vai al governo non puoi rimanere insensibile ai voleri del grande capitale, soprattutto in una situazione di questo genere. Prima appunto ricordavo la strigliata che ha dato oggi Bonomi sulla questione della flat tax. Ho visto che il responsabile, mi pare economico, di Fratelli d'Italia ha risposto che c'è nel programma, ma insomma è evidente che questa sarà una cosa che non verrà lasciata nel cassetto, con buona pace di Salvini e del responsabile economico di Fratelli d'Italia. Quindi si apre, diciamo, una situazione abbastanza interessante, perché mi pare difficile ipotizzare che nei prossimi mesi ci sarà un governo forte. E d'altra parte, anche un po' nella campagna elettorale, questa preoccupazione di una politica debole costretta a gestire una fase estremamente caotica, delicata, in cui ci sono dinamiche che sono assolutamente fuori controllo, appunto la dinamica dei prezzi delle energie, quindi dell'inflazione, la questione della guerra, le tensioni commerciali, non solo tra America, Europa e Russia, ma anche con la Cina. Tra l'altro, ricordiamo che insomma, entro breve concludono i lavori del Partito Comunista Cinese, che non mancheranno di avere un impatto sulla situazione geopolitica globale. Pensavo insomma che su questo potrebbe anche essere utile qualche approfondimento sulla newsletter. E quindi dicevo, questa preoccupazione traspariva diciamo in tutta la campagna elettorale. Quindi mi pare che noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui non sappiamo se ci saranno se ci sarà una grande reazione sociale. Può anche essere che non ci sia, però diciamo qualche problema io credo che ci sarà. In questo ovviamente il sindacato mi pare che e le forze sociali in generale mi pare che non siano attrezzate ad affrontare una situazione di questo genere, perché appunto USB va a bruciare le bollette. La CGIL annuncia questa manifestazione sabato prossimo, che però insomma sarà una manifestazione, come dire, abbastanza limitata. Insomma, si chiude in Piazza del Popolo, quindi insomma non si aspettano grandi cifre. Mi pare che diciamo, la previsione, diciamo, cioè i numeri che la CGIL ha mandato alle Camere del Lavoro, come fa sempre quando ci sono le manifestazioni nazionali, prevedano meno di 25.000 persone. In più è una manifestazione che era già stata convocata prima delle elezioni, quindi sostanzialmente a freddo, che avverrà quando non ci sarà ancora non solo un governo, ma non si sarà neanche insediato il nuovo Parlamento. Quindi insomma non mi pare una cosa che. E peraltro anche in queste ultime settimane mi pare che la voce della CGIL sia stata molto debole. Insomma, quest'idea che in una situazione di inflazione altissima l'unico modo per aumentare i salari sembra che sia chiedere i soldi allo Stato attraverso il cuneo fiscale, le tassazioni, eccetera, eccetera, quando ci sono settori che prima con la pandemia, poi con la guerra, hanno fatto soldi a palate. Penso adesso siamo ancora, ad esempio, col contratto della vigilanza privata fermo, con una proposta, mi pare di capire, ridicola da parte delle associazioni datoriali. E c'era stato uno sciopero, mi pare, alla vigilia di Natale del 2020, dopodiché non c'è stato più uno sciopero e siamo ancora lì fermi. Insomma, quindi la situazione mi pare un po' questa. Dico due cose brevemente, invece, diciamo, su di noi e sulle iniziative che stiamo preparando e che abbiamo svolto, non tanto, diciamo, su questo terreno, ma più diciamo sulla questione della guerra, che mi pare, devo dire, la cosa più interessante, perché insomma oggi siamo sull'orlo dell'utilizzo di armi nucleari tattiche in Ucraina e discutiamo del congresso del PD. Mi pare che insomma ci sia veramente una scissione che diventa quasi una perdita del senso di realtà. Però dico questo perché così evitiamo di fare tutto il dibattito e poi faccio la comunicazione alla fine, così anche se qualche compagno vuole intervenire, tanto su questo sarò brevissimo. Come avrete visto e come avevamo detto anche prima dell'estate, abbiamo lavorato a un documento sulla guerra, sulla nostra posizione a proposito della guerra e su un documento in particolare orientato a quella parte maggioritaria, mi pare, del movimento trotskista che di fatto è salito sul carro della NATO abbracciando, come dire, l'idea del appoggio armato alla cosiddetta resistenza ucraina. Adesso, come dire, non sto a entrare nei dettagli perché insomma sono cose che abbiamo già discusso. Questo documento è stato pubblicato ai primi di settembre, devo dire con un buon riscontro, diciamo, da parte, diciamo, della gente che l'ha letto e anche dei gruppi, diciamo, con cui siamo in contatto qui in Italia. Adesso è stato tradotto in francese, dovrebbe uscire nei prossimi giorni su Contretemps, che è un sito, diciamo, di area trotskista francese molto conosciuto, dove c'è anche lì si sta sviluppando un po' un dibattito tra due posizioni contrapposte, diciamo, sulla guerra, e lo stiamo facendo tradurre anche in inglese con un qualche ritardo perché la traduttrice a cui ci siamo affidati si è presa al Covid, per cui diciamo non ha potuto tradurlo, diciamo, prima, ma insomma ci sta lavorando, quindi io penso che probabilmente già la prossima settimana ce l'avremo e lo manderemo, diciamo, ai gruppi anche con cui siamo in contatto, insomma, quindi ad esempio con quei pezzi di CWI con cui siamo restati in contatto negli ultimi anni. Nel frattempo sta venendo fuori una vera e propria OPA, diciamo, la definisco così, su quel che resta del movimento trotskista dell'estrema sinistra, perché sono usciti una serie di articoli, l'ultimo l'ho trovato pochi giorni fa, ma era stato pubblicato il 9 di agosto su Valigia Blu, che è un sito giovanile progressista, che però si è speso molto, diciamo, sulla questione del sostegno alla resistenza ucraina, dell'invio delle armi, eccetera, eccetera, di questo esponente ucraino, area, diciamo, quarta internazionale, che pubblica questo articolo in cui, citando Trotsky, spiega perché la posizione corretta è quella di sostenere la resistenza ucraina. Ma di questi articoli ne sono stati pubblicati anche altri, quindi l'idea che mi sono fatto è che, diciamo, all'interno dell'establishment capitalistico si veda nel movimento trotskista, pur con tutte le sue magagne, però, come dire, un'area che tutto sommato nei prossimi mesi, anche in una crisi sociale, in una situazione di fragilità anche della politica, potrebbe creare qualche problema, e quindi si cerca di cooptarlo trovando anche la collaborazione di alcune aree che hanno deciso di imboccare quella strada, insomma, prima tra tutti il segretariato unificato, ma alla fine anche gruppi a noi più vicini, se non altro per rapporti personali, come appunto PCL, i vari RICE e compagnia bella, diciamo, procedono su quella strada. L'idea, pertanto, come avevamo detto già anche all'inizio, cioè prima dell'estate, era quella di provare di giocare un po' un ruolo politico e di intercettare invece quei compagni che all'interno del movimento trotskista, pur venendo da quelle organizzazioni, come dire, non condividono quella deriva e che quindi cercano un riferimento. Avevamo già detto che prima dell'estate avevamo parlato con Lotta Comunista sulla possibilità, diciamo, di provare a organizzare un incontro entro l'autunno di gruppi che in qualche modo si rifanno alla tradizione internazionalista e che condividono le nostre posizioni, un po' anche, come dire, quello che nel nostro documento abbiamo scritto alla fine, no? Parlando di una nuova Zimmerwald. E nei prossimi giorni, diciamo, io dovrei venire su a Genova per parlare di nuovo con Lotta Comunista e coinvolgeremo anche probabilmente anche qualche, diciamo, compagno di questi ex CWI con cui siamo rimasti in contatto per farne, diciamo, una riunione internazionale. Vediamo, diciamo, se si riesce, siamo in contatto con il gruppo di Luca Scacchi, che è uscito dal Partito Comunista dei Lavoratori, con i compagni che sono legati ad Altamira in Argentina, tra cui i compagni di Salerno che per un po' di tempo sono stati con noi, e quindi quello, diciamo, è sostanzialmente, diciamo, un po' loro e i loro contatti sono quelli che vorremmo coinvolgere in questa assemblea, se si riesce a fare. Prima di quello, e magari nei prossimi giorni, quando abbiamo un po' più di dati, vediamo anche di fissare un appuntamento, vorremmo organizzare invece un'assemblea più nostra, diciamo, però aperta ai contatti che abbiamo accumulato in questi ultimi mesi, e anche a qualcuno magari di questi ex compagni, come dire, che non condividono la deriva della Quarta Internazionale, che magari hanno voglia di discutere con noi. E l'idea era quella di convocare una riunione come questa, diciamo, però allargata a questi contatti, di discussione proprio sulla guerra e sul nostro documento. Per cui chiudo qui, diciamo, nei prossimi giorni vediamo, insomma, di proporre una serie di date e di capire, appunto, se questa assemblea con altri gruppi a livello nazionale non solo si riesce a concretizzare, e vediamo di fissare anche questa riunione nostra aperta ai contatti online sulla guerra, sul nostro documento sulla guerra, mentre nel frattempo abbiamo continuato a utilizzare il libro di Mandel per girare a presentare il libro, e anche per discutere con dei compagni. La settimana scorsa abbiamo fatto la presentazione del libro a Roma, c'era una quarantina di compagni, quindi insomma è andata abbastanza bene, abbiamo venduto copie del libro, e il prossimo appuntamento dovrebbe essere a novembre, dovrei andare a Cosenza e con questo gruppo di compagni, appunto, legati all'associazione Controvento, quindi a questa scissione del Partito Comunista dei Lavoratori, e fare la presentazione anche lì. Chiudo lì e apro il dibattito. Chi è che tiene aperto il microfono? Che Anton Giulio è il solito indisciplinato. No, io, a parte il fatto che, insomma, condivido l'analisi, ma volevo dire che in sostanza, sinceramente, non mi sento tanto presa da commentare le elezioni che ci sono state. Perché, a parte giusta analisi che hai fatto tu, Marco, su chi è andato a votare, che percentuali, chi sono, estrazione sociale, tutte quante queste cose qui, per la politica che loro possono portare avanti, secondo me c'è poco da analizzare e discutere, perché possono aver raccontato qualsiasi cosa, come del resto tutti quelli che hanno raccontato. Alla fine, la via obbligata è quello che loro chiamano agenda Draghi, cioè ascoltare Unione Europea nelle forme magari diverse, con motivazioni diverse. Ovviamente questo li porta a avere ministri tecnici. Ma il problema qui è la guerra. Cioè, come si può dire, non hanno via di uscita. Cioè, se, diciamo così, sul fronte esterno, sulla politica estera, sono presi da sono pressati dalle posizioni americane dell'Unione Europea contro la Russia e appoggio a Ucraina. Dunque, ad oggi, con la crisi che c'è in Europa, che ancora non si vede niente, però non tarderà, perché bastano 2 mesi, 3 mesi. Ora, e specialmente l'Italia è il più malmesso in tutta l'Europa dal punto di vista energetico. Allora non c'è una via di uscita per loro. E non vorrei che proprio il governo italiano diventi il governo più guerrafondaio, perché la guerra è una via di uscita per situazioni di questo genere. Dunque, per quanto riguarda la situazione, come sarà, secondo me, a voglia che tutti mettono, insomma, la cicca di sigaretta sotto il tappeto, alla fine brucia, qualcuno metterà qualcosa che prenderà fuoco. Perché? Perché qui bisogna scegliere. Se loro non fanno scostamento di bilancio, se lo facessero pure, devono scegliere a chi lo danno questi soldi. In generalizzato, cosa fanno? Un bonus da 50 euro alle famiglie, alle aziende, o preferiscono, per ritardare l'esplosione sociale, darlo agli operai che vanno in cassa integrazione? No? Perché altro non possono fare, perché loro ovviamente, se vanno contro i dettami dell'Unione Europea, escono dall'Europa, e questo non è pensabile, che governi che vediamo in giro, insomma, facessero una cosa del genere. Per questo dico, la situazione sarà esplosiva. Perché? Perché quando grandi le famiglie, adesso lasciamo di perdere, quando grandi fabbriche cominceranno a, o medie, cominceranno a licenziare, ci saranno tanti di quei disoccupati in giro, no? Che in un certo senso o li devi dare il reddito di cittadinanza, perché sarà quello, e comunque devi investire su di loro, dargli i soldi, o li devi dare cassa integrazione, cioè è, non hanno una data certa per la fine di questa situazione. Quasi quasi la fine della pandemia lo potevano prevedere molto più semplicemente rispetto a questo. Perciò dico, io credo che è un momento molto molto difficile per loro, come nuovo governo, sostanzialmente io dico anche per il Parlamento, perché devono prendere delle decisioni questi, non è che la gente li tira i sassi poi. Questo per quanto riguarda la situazione che stiamo vivendo. Poi per quanto riguarda la situazione che mi dicevi, che stavi dicendo, dei gruppi di tendenza trotskista, vabbè, guarda, io ti dico una cosa semplicemente, vi dico che secondo me in questi giorni una persona che ha dato la prova di grande analisi è stato Roger Waters, che praticamente critica Zelensky scrive alla moglie di Zelensky, che praticamente siete dei guerrafondai, no? E chiede dall'altra parte al mondo intero di supportare le manifestazioni in Iran. Invece qui succede in giro che, come oggi ho parlato con Marco, su come si chiama Marco, questo giornalista del Manifesto, non mi ricordo più, Alberto Alberto Negri. Negri, che alla fine, insomma, scivola su buccia di banana di filo putinismo, no? Prende praticamente, comincia a insinuare su un blogger italiano che è stato arrestato a Teheran. Dunque, che comunque dice ingenuo, ma qui bisogna, non è secondo me ingenuità che va focalizzato, ma chi l'ha arrestato, insomma, perché l'ha arrestato. Comunque volevo dire che in ogni modo qua la situazione ruota tutto intorno al punto della guerra. Perché la guerra, anche se non sarà nucleare, no? Ammesso e non concesso che non arriviamo a fare tirassegno con i missili tattici, ma se continua in queste condizioni è una guerra vera, perché a quanto pare il gas non arriverà più perché non ne sta arrivando. In ogni modo le riserve, quante riserve ci sono? Mica per 10 anni, le riserve saranno per 6 mesi. E dopo 6 mesi che cosa succederà? E con questi prezzi succederà prima. A me mi diceva chi mi fornisce energia, il rappresentante, diceva: il problema non è che non forniamo più energia, ma il problema è che la gente non c'è da pagare questa energia, questo prezzo. Dunque, io credo che facciamo ruotare tutto il discorso intorno alla guerra. Le analisi, le ricerche, per capire. Poi un punto finale, volevo dire, tutto questo interesse per il popolo iraniano ovviamente è semplicemente perché comunque è una forza militare non di poco conto nella regione, è alleato. Esattamente come la Cina, forse più di più, perché comunque ha anche una carattere quasi di semi-sottomissione rispetto alla Russia, che la Cina non ce l'ha, perché l'abbiamo visto in Siria, che tutte le truppe di terra erano iraniane, e dunque. Solo questo adesso è la motivazione che tutti si sono ricordati, che ci sono donne che vengono uccise, giovani che vengono uccisi, politici, registi, poeti, scrittori, insomma, della mancanza della libertà si sono resi conto adesso per questa motivazione qui. Grazie. Grazie Ali. Altri interventi? Nessuno ha nulla da dire perché ma sulle elezioni non ci sono molte cose da dire oltre a quelle che hai detto già tu. Io credo che diciamo, sia ancora presto per vedere, cioè bisogna vedere come faranno governo e cose di questo genere. È chiaro che i segnali che ci sono quelli di una continuità col governo Draghi sostanzialmente, diciamo, stare dentro sia la politica estera che la politica interna del governo Draghi. Mi sembra che anche, per quello che ho potuto leggere, anche a livello internazionale, da un lato c'è questa, diciamo, necessità della Meloni di essere più realista del re per non alimentare quelle cose del fascismo, eccetera, eccetera. Dall'altro, anche a livello internazionale, mi sembra che stiamo calibrando più le misure, diciamo, al governo, no? E per cui si parla di origini post-fasciste, cose di questo genere, piuttosto che piuttosto che non, diciamo, continuare sui toni della campagna elettorale. È chiaro che le dichiarazioni che ha fatte, pur tenendo conto che le ha fatte a un'assemblea della Coldiretti, eccetera, sono dichiarazioni programmatiche molto, molto chiare, cioè sulla questione che non intende disturbare la Confindustria, disturbare, diciamo, tutto il padronato, i vari settori del padronato. Nonostante questo, parecchie trappole sulla strada le troverà, a partire anche da cose che non hanno una grande importanza in sé, ma che parametrato a un governo di destra, sono cose che comunque in Europa gli potranno creare dei casini, tipo tassisti, concessioni balneari, cose di questo genere. Quindi, in più c'è questa questione delle bollette che è veramente fuori controllo. Per cui, mentre, diciamo, è comprensibile la logica del governo Draghi, che diciamo, da 2 o 3 mesi è un governo a scadenza, di cavarsela con dei bonus, però poi quelli che vogliono governare per 5 anni non se la possono cavare a questo modo. E quindi credo che cioè, avranno delle difficoltà. Il sindacato, diciamo, vedo una persistente. Cioè, da un lato la CGIL e in generale i 3 sindacati confederali non si muovono, o si muovono poco nella logica che diceva Marco. Dall'altro, proprio il fatto che non si sono mossi per un anno di governo Draghi, oggi dà una valenza politica particolare se si muovono contro il governo Meloni, perché se le cose sono le stesse, allora perché non le hai fatte? Cioè, perché non ti sei mosso quando c'era Draghi, con Landini che dimostra poi di essere un segretario, come poi la realtà, cioè un segretario azzoppato sin dall'inizio, perché ha avuto, diciamo, rispetto a una cosa che era anche banale, quella che il sindacato tratta col governo in carica e che non fa una particolare campagna elettorale, ha avuto, diciamo, un dissenso interno abbastanza esplicitato, eccetera. E poi vedo che anche oggi, diciamo, qualsiasi trattativa viene, diciamo, ipotesi di trattativa viene usata per dire che cioè, la CGIL tratta, mentre invece dovrebbe fare chissà cosa. Quindi io credo che la situazione, cioè il governo si trova in una situazione obiettivamente difficile e non è aiutato. Da un lato, cioè il fatto che diciamo, Fratelli d'Italia si sia trasformato in un partito nordista, venendo da una tradizione invece di partito del sud, no? Cioè, diciamo, radicato soprattutto al sud. E da un lato, diciamo così, è un elemento di analisi rispetto a queste cose sul fascismo, eccetera. Cioè, in Italia, da un lato, il fascismo c'è sempre, cioè una corrente, prima nostalgica e poi continuista rispetto al fascismo, diciamo, fa parte della storia della Repubblica da quando esiste, dal 1945, con però una base elettorale che era abbastanza stabile, no? Una base elettorale che andava dal 5 al 10%, ma che, diciamo, in tutto i 50 anni e più di Repubblica è rimasta una base stabile, sia nella quantità sia diciamo così, nella distribuzione sociale, cioè c'erano delle zone dove, diciamo, il movimento sociale era, diciamo, radicato nel territorio, una parte del Lazio, diciamo, altre pa parti del sud. Diciamo. E questo, le elezioni hanno cambiato le carte in tavola, nel senso che non è possibile che in 4 anni i fascisti siano passati dal 4 al 26% in Italia. È evidente che alcuni fenomeni che prima avevano premiato, cioè quella generica protesta, insoddisfazione per la situazione, in parte è andata verso l'astensione, diciamo, soprattutto che non è un'astensione generica, ma che è un'astensione, diciamo, concentrata nelle fasce popolari, in parte è stata ancora capitalizzata dai 5 Stelle che hanno mantenuto il Sud, una cosa che non era scontata, cioè il fatto che i 5 Stelle, nonostante abbiano perso pezzi alla Di Maio, e con quello che si è portato dietro lui, che penso che sia stato anche una parte di eletti nel sud, nonostante che abbiano una struttura che li penalizza dal punto di vista elettorale, perché questa cosa qua dei 2 mandati, dei dilettanti allo sbaraglio, eccetera, cioè non gli permette, soprattutto in situazioni dove il voto significa anche avere dei clienti, no? Che ti chiedono qualcosa per il territorio, per il cognato, eccetera, li penalizza, e in cui invece, per esempio, partiti come il PD si sono inseriti, perché è anche indicativo, diciamo, non so, una situazione come quella della Campania, dove il Movimento 5 Stelle ha le politiche stravince, perché ha avuto delle punte altissime, a Scampia 70%, comunque è un partito che dimostra alle politiche, e poi si esprime in un cacicco locale che è del PD, ma potrebbe essere di qualsiasi altra, diciamo, cioè è De Luca, nel senso che poi la tessera che c'è in tasca è assolutamente irrilevante, così come un altro personaggio come Emiliano Puglia, che invece controlla la politica locale. È evidente che, cioè, che a Conte, in una situazione molto sfavorevole, è riuscito l'operazione di accreditare i 5 Stelle come un partito utile, cioè un partito che fa la guardia al reddito di cittadinanza, che si è speso sul salario, che si è speso sulla battaglia sul salario minimo, e quindi molti, secondo me, in tutta Italia, ma soprattutto nel sud, dove questa cosa preme di più, l'hanno votato per questo. E nonostante che oggi sia un partito di opposizione, il gioco, proprio per questo tipo di radicamento territoriale, il gioco del centrodestra non è facile. Perché toccare pesantemente il reddito di cittadinanza significa potenzialmente fare un grosso favore a Conte, no? Che comunque può capire. Cioè, il gioco che è riuscita la Meloni nei confronti di Draghi, cioè, oggi c'è lei al posto di Draghi, cioè, e deve fare le cose deve fare le cose di Draghi. Diciamo, all'opposizione lo possono giocare il PD e Conte, ma il PD lo può giocare solo in teoria, perché in pratica, a parte che in pratica sarà diciamo così, impegnato nell'ennesimo inutile congresso, cambio di segretario, tutte stronzate di questo genere. Però poi diciamo, fare l'anti-Draghi, che oggi si è trasformato in Meloni, per un partito come il PD è una cosa contro natura, cioè questi qua sono fatti per sostenere la Confindustria, le cose, cioè, e poi diciamo, subiscono anche la concorrenza da destra di Calenda Renzi. Fra l'altro, io credo che al prossimo congresso del PD forse la cosa più significativa sarà che Renzi ritirerà la sua corrente. Una volta che ha dimostrato, diciamo, che si sono creati una testa di ponte, che non sarà un, diciamo, un granché, ma comunque gli ha garantito il fatto di avere una testa di ponte in Parlamento, ritirerà i suoi, che ha lasciato, diciamo, finirà l'entrismo di Renzi nel PD, perché ancora tutto il gruppo, diciamo, di core, come si chiama, insomma, la base democratica, non mi ricordo più come si chiama la corrente renziana dentro il PD. Quindi io credo che cioè, questo gioco di opposizione al PD non sia congeniale, e a Conte sì. Quindi probabilmente diciamo, la contrapposizione, secondo me, sarà su questo. Parlando con Bruno sti giorni, c'era che ci sono le aperture della CGIL sulla questione del salario minimo, ma a questo punto diventa ancora più difficile, perché è evidente che finché c'era un governo che potenzialmente poteva anche, diciamo, essere permeabile a questa cosa, diciamo, hanno fatto opposizione. Adesso che c'è un governo che potrebbe essere meno permeabile, anzi, potrebbe essere, a parte che appunto sulla questione della reddito di cittadinanza, poi credo che ci siano anche nella stessa Confindustria posizioni, reddito di salario minimo, non ci sia una cosa monolitica neanche lì. Però, diciamo, tutto quello che farà su questo diventa una cosa strumentale. Poi sull'altro pezzo della discussione, sulla questione dell'iniziativa, sulla guerra, io credo che sia una cosa che vada fatta, non facendo una cosa, diciamo, di massa, perché potrebbe anche avere degli effetti, insomma, a parte che non ce la facciamo noi a farla di massa, ma degli effetti controproducenti, perché a quanto leggo, diciamo, la confusione è talmente alta. Oggi leggevo, Marco ha messo così in riferimento a un documento fatto in Grecia da aree che potevano anche essere abbastanza vicine a noi, come quella di Savas, che era così nel gruppo internazionale con PCL, eccetera. E la cosa indicativa è che usando magari gli stessi argomenti si schierano su, cioè, le pressioni ambientali si fanno schierare su, cioè, si organizza l'armamento, si utilizza l'armamentario sedicente trotskista di argomentazioni per schierarsi su posizioni, cioè, o con Putin o con Zelensky, no? Ma l'idea di un internazionalismo che sia strategicamente contro gli uni e gli altri e il proprio governo è lontanissimo. Leggevo prima di cominciare un appello, una manifestazione che ha condiviso Roberto Firenze a Roma, che ci sarà all'ambasciata russa, fatta da Sinistra Critica, eccetera, che è un appello tutto fermatevi, no? Cioè pacifista, ma con delle posizioni che sono molto più lontane dalla realtà di quanto siano quelle del Papa. Cioè, mentre il Papa parla chiaramente di guerra imperialista, cioè questo arrampicarsi sugli specchi di, diciamo, fermatevi in nome dell'umanità. Mentre quello che dicevo prima, la cosa che mi ha colpito è che un argomento che è in sé ridicolo, no? Che è quella del paese semicoloniale, no? Venga utilizzato dal PCL per dire che l'Ucraina è un paese semicoloniale, quindi, come diceva Trotsky, bisogna difenderla dall'attacco dell'imperialismo russo, e da dei greci che la Russia è un paese semicoloniale attaccato dalla NATO e quindi bisogna schierarsi con Putin, con la Russia. Poi Putin sono oligarchi, hanno ritirato fuori la categoria della non burocrazia, del bonapartismo, il bonapartismo putiniano e degli oligarchi, eccetera, dominano la Russia, ma comunque la Russia oggettivamente è attaccata dall'imperialismo, no? Quindi perché è semicoloniale? Quindi lo stesso tipo, diciamo così, di cassetta degli attrezzi teorica viene utilizzata per sostenere o un campo o l'altro. Il problema è che di questi compagni è che hanno bisogno di schierarsi in un campo, perché se non ti schieri in un campo non ci sei. Quindi io credo che purtroppo, cioè, anche la storia che abbiamo attraversato noi nella nostra vita, diciamo così, dentro il movimento trotskista eccetera, sia raggiunta a capolinea da questo punto di vista. Cioè, ci possono essere qualche pezzo di organizzazione, magari anche individui eccetera, ma il dibattito che c'è ormai, Marco parlava di un'OPA nei confronti di questi, ma cioè, all'esterno ci può essere anche l'offerta pubblica di acquisto, ma comunque questi qua sono già venduti, cioè sono proprio in attesa del miglior offerente da un punto di vista politico, perché diciamo, sono sempre più convinto delle cose che scriviamo alla fine del documento. Ormai è cambiata proprio la base sociale di questo pezzo di sinistra che conosciamo meglio noi, ma anche di altri pezzi di sinistra che magari sono meno, diciamo così, sono meno contigui, ma comunque obbediscono alle stesse spinte sociali. Grazie Piero. Altri interventi? Domande anche? Io? Si sente? Sì, Gino. Ok. Allora, intanto mi scuso per la ultima volta che ci siamo visti, che al finale della riunione mi ero addormentato per effetto di tutta una serie di medicine che sto prendendo, eccetera, eccetera. Gino, in realtà io non me ne sono neanche accorto, quindi no. Anche senza medicine, quindi... Qualcuno sì. Comunque, al di fuori di questo, è interessante alcuni articoli che sono usciti, che mi hanno mandato in merito alla vittoria, diciamo, dei Fratelli d'Italia. In spagnolo li chiamano hermanos italiani, e in questo articolo molto interessante, che in spagnolo dice molto chiaramente che il giro che farà la Giorgia Meloni è un giro, no? una diciamo, un salto, no? a una politica neoliberalista, diciamo, il proseguimento delle politiche che abbiamo visto nei diversi governi che si sono succeduti prima del governo Draghi, governo Letta, governo Berlusconi, governo Renzi, governo Draghi, diciamo, è un proseguimento. Certamente che questo articolo evidenzia sia molto chiaramente per chi batterà, diciamo, la Meloni. Certamente che farà in modo di compiere quella parabola dare sempre di più, diciamo, i servizi pubblici ai settori privati, in un processo di liberalizzazione molto maggiore di quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, a partire, diciamo, dei processi di liberalizzazione, di privatizzazione, quello come della sanità in Lombardia, che è un modello, diciamo, che potrebbe essere un modello, diciamo, esteso per tutta l'Italia, come poi per tutto quello che sono, che è, diciamo, è tutto il sistema delle partecipate. Poi per il resto il governo di centrodestra non ha la differenza, qual è? Cambia soltanto che in questo governo c'è un soggetto nuovo, che sono i Fratelli d'Italia. Come diceva Piero, come diceva prima te, che hanno preso una quantità di voti, c'è stato, diciamo, proprio un cambio, no? Chi è il miglior servitore che attualmente il patronato italiano può avere di fronte alla crisi energetica e alla difficoltà che gli imprenditori hanno nei confronti della situazione attuale derivata dalla guerra, dal costo energetico, eccetera, eccetera? Hanno detto che non è la Lega. La Lega è stato al governo con Draghi, è quella che ha accettato passivamente, no, il famoso reddito di cittadinanza, e quella anche che insieme al PD e altre hanno bloccato il licenziamento durante il periodo del Covid, e quale loro hanno dovuto, diciamo, non hanno potuto fare pulizia all'interno delle loro fabbriche per liberare, diciamo, forse che non erano più utili alla loro produttività, e di conseguenza, diciamo, hanno cambiato un interlocutore, hanno cambiato, diciamo, chi può essere più utile in questo momento. Per quanto concerne, diciamo, di quello che diceva prima Marco nella sua relazione in merito alla cosa sta succedendo sulla quarta internazionale, vabbè, io seguo molto quello che succede in Centro America, Sud America, e veramente, diciamo, c'è una situazione, c'è un disastro, c'è proprio una è saltato il banco, nel senso che interi settori, diciamo, di pezzi che fanno capo al segretariato hanno, diciamo, apertamente si sono messi quasi insieme a quelle forze politiche staliniste che tuttora difendono Putin, pensando che Putin è il nuovo bolscevico, che ancora c'è l'Unione Sovietica. Diciamo, non hanno capito che nel 99 è caduto il muro, non hanno capito che l'Unione Sovietica, quella che abbiamo conosciuto, non esiste più. Esiste, diciamo, un fattore che si chiama Putin, che è un imperialista come tanti altri, mafioso, perché bisogna anche dirlo, no? Dopodiché interi settori, tra parentesi, diciamo, che avevano anche avuto posizione abbastanza di un certo tipo, oggi stanno completamente, diciamo, cambiando posizione. Sulla guerra, beh, lì c'è ben poco da dire, diciamo, c'è una guerra imperialista fra due attori, fra l'attore Biden, che è il capo, diciamo, dell'Ucraina, alla procura di fare la guerra, diciamo, di fare in modo di non arrivare a nessun accordo di pace con l'imperialista Putin, e di continuare questa guerra infinita e con tutte le sue conseguenze. La destra si trova nel momento, secondo me, più brutto per governare, più brutto per vincere, no? Vincere una situazione di caos totale, una situazione, diciamo, veramente molto pericolosa dal punto di vista non degli sviluppi anche della guerra, ma anche negli sviluppi anche a livello nazionale. sul fatto del costo energetico, sul fatto di quello che succederà nei prossimi mesi, del fatto delle famiglie, eccetera, eccetera. E io l'altra volta, sabato, ho partecipato al congresso dell'Associazione Italia-Cuba e il compagno cubano che ha fatto la relazione, una cosa pietosa, una cosa diciamo veramente pietosa, la sconfitta della sinistra cilena. Dopodiché io ho detto, ma di quale sinistra stai parlando? La unica sinistra, diciamo, che potresti dire, non so, sono i rametti sparsi per l'Italia di Rifondazione Comunista. Dopodiché le ho detto io, non c'è nient'altro, gli altri sono quelli che ti votano nel Parlamento Europeo contro Cuba sul fatto dei diritti umani. Ma che caso stai dicendo? Dopodiché, diciamo, mi hanno detto, Tino, calmati. Io mi sono calmato, dopodiché ho capito, vedi, che veramente una cosa, veramente così qua, diciamo, non so in che mondo vivono, non so, o era per tenere buona così, no, la platea, non lo so, però comunque mi ha dato molto, molto fastidio. Per il resto, quello che dobbiamo... in merito alle manifestazioni dell'Iran, io ho mandato un video che avevo fatto, la prima manifestazione che hanno fatto a Genova, che è stata fatta martedì scorso, e ho parlato con alcune persone, donne e ragazzi che erano lì nella manifestazione a Piazza del Ferrari, e sono tutti ragazzi, diciamo, figli di esiliati che studiano nell'università. Insomma, una cosa molto interessante, le ho dato il mio numero, le ho detto chi ero, insomma, molto simpatici, alcune, io sono un compagno, una compagna, io molto, diciamo, senza andare oltre, perché situazione molto, diciamo, particolare, insomma. Per quanto concerne poi il resto è che non c'è un referente per il mondo del lavoro attualmente. Diciamo, il lavoratore attualmente è completamente indifeso, diciamo, non c'è un interlocutore che possa dire questo mi difende, questo difende i miei diritti, questo difende i miei interessi, a prescindere dal fatto del sindacato, della CGIL, della CID, della GUIL, della UCD, UGL, eccetera, eccetera, eccetera, che poi ognuno ha ai suoi programmi, le sue posizioni, però di fatto il lavoratore, la lavoratrice in generale si sentono completamente, diciamo, abbandonati, e in questo abbandono si è perso anche un tempo c'era una discussione dentro i posti di lavoro, c'era la cellula di un partito, o il Partito Comunista, o le tre parlamentari, c'era un qualcuno che teneva in moto tutta una serie di discussioni, dopodiché basta, dopodiché non c'è nulla. E questo, diciamo, è il fatto più preoccupante, questo è uno dei fatti per i quali io continuerò, diciamo, a fare in modo perché si possa realizzare. I compagni della Bianchini lì in questa riunione lì che possa fare qua dell'Associazione Italia Cuba mi hanno detto se ero disponibile a fare una relazione, e io gli ho detto guardate che io non sono iscritto a Rifondazione, per cui no. Si vengo perché vabbè, l'Associazione Italia Cuba vi conosco, voi mi conoscete, sapete che perché me l'hanno anche ricordato, Enrico Berugli a rompere il cazzo, in Rifondazione, sì, le dico quello, cosa vuoi che ti dica? Tu hai la tua posizione, io sono la mia. Dopodiché, oggi siamo in questa situazione, se vuoi continuare a fare qualcosa, devi cambiare, devi fare in modo che le cose cambiano, e per cambiare bisogna andare a volantinare nelle fabbriche, a fare intervento nei posti di lavoro, non solo quando ci sono le elezioni. Dovresti andare a presentare un volantino ogni mese per secondo, diciamo, la situazione, allora sì che i lavoratori, quando fra 5 anni ci saranno le elezioni, potrà dire: ah, ma voi siete quelli che siete sempre venuti e quando abbiamo avuto problemi nel posto di lavoro che eravate anche qua a difenderci. Ma voi dove cazzo eravate quando stavano per chiudere il cantiere, l'Ilva, o mettevano in discussione i posti di lavoro? Non c'eravate. E non potete pensare che la gente vi voti soltanto, solo esclusivamente quando ci sono le elezioni al sindaco o ci sono i parlamentari o le elezioni politiche. La gente non vi riconosce più. Per la gente chi siete? Ah, quelli che un tempo, basta pensare alle elezioni politiche, alle elezioni di sindaco, il risultato che si è ottenuto nella Val di Sangno, con Bruschi e con tutta la platea, diciamo, di alcuni esponenti anticomunisti che ci sono lì, che hanno perso completamente. Quel poco che avevano sono stati spezzati via perché? Per fatto della guerra. La guerra, piace o non piace, è stata determinante perché alcuni settori sociali dicessero: bene, ma non potete sostenere un governo e guerra fondaglio, non potete sostenere venire l'invio di armi a Zelensky e non potete nemmeno venire fare in modo che questo continua. Voi dovete condannare sia l'uno che l'altro, Putin, Zelensky e Biden. Invece continuate a essere i servi della NATO, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, la situazione è questa qua. Vabbè, e per non parlare del vabbè, poi prima o poi ne parleremo, non lo so quando avremo voglia. Il risultato del 4 di settembre in Cile. Si vede che il mese di settembre è un mese bastardo perché il popolo cileno ha rifiutato il documento della convenzione costituzionale, che non era un'assemblea costituzionale, era una convenzione eletta e che poi votavano un documento, quel documento che sarebbe stata la Costituzione, poi veniva discussa a quattro nelle mura, a porte chiuse, nel Senato della Repubblica, la quale poi avrebbe lavorato la nuova Costituzione. La gente ha detto no, allora, e basta, è finita lì, e poi adesso prosegue, eccetera, eccetera. Vabbè, per cui, insomma, la situazione è questa qua. Basta. Grazie Gino. Se ci sono altri interventi nel frattempo, visto che Gino ha partecipato alle manifestazioni dell'IRA e che ha preso dei numeri di telefono e che comunque appunto c'ha anche questi rapporti con pezzi di Rifondazione che magari lo chiamano, volevo ricordare che eventualmente, se si volesse organizzare anche una piccola discussione lì, c'è sempre Milad, il compagno iraniano di Pegli, che eventualmente, diciamo, può essere coinvolto, credo. Altri interventi? Ma io... Maurizio. Mi senti. Ma dunque, volevo... poche cose. Beh, intanto devo dire che tra prima, durante e dopo le elezioni... credo di non aver mai assistito a una campagna elettorale, post-elettorale così spaventosa come questa, perché insomma, se penso allo scenario che c'è, quindi la guerra e quello che c'è stato prima, no? Perché poi comunque ne venivamo da 2 anni di guerra sociale causata dalla pandemia, direi che una campagna così disastrosa mi ha regalato solo un momento di divertimento in questi giorni. Rosy Bini che chiede lo scioglimento del PD, perché era proprio una roba, insomma, dava un tocco di surrealità a tutta la... A me sembra, insomma, mi sembra difficile fare previsioni su quello che accadrà, perché tutte le cose, sia quelle che hai scritto tu sulla newsletter, che sono state rievocate stasera, mi sembrano tutte, insomma, scenari plausibili, la continuità tra il governo Draghi e le politiche che farà la Meloni, anche se però... Insomma, mi sembra veramente difficile fare previsioni, un po' perché c'è questo elemento drammatico della guerra, ma anche tutto il contesto, non so, i problemi inflativi, monetari. Mi ha colpito che ieri, almeno uscito, ho letto un'agenzia, una cosa che diceva che, non so, il Credit Suisse nel fine settimana ha rassicurato investitori perché si era sparsa la voce di un'imminente crisi di liquidità, eccetera. E che poi forse non era il Credit Suisse, ma la Deutsche Bank, cioè, quindi parliamo comunque di primari istituti di credito, per cui è chiaro che avrebbe un impatto. Quindi uno scenario estremamente complesso. Poi, visto quello che è successo negli ultimi 5 anni, mi sembra che a repentine ascese hanno corrisposto sempre rovinose cadute, quindi i 5 Stelle passano dal 34, quant'era, al 17, Salvini alle europee prese il 33, ora è ridotto all'8, quindi quale governo ci sarà tra un anno, insomma, non so se scommetterei di ritrovare la Meloni, okay. Anche perché, come diceva Piero, insomma, il terreno, a parte tutto il contesto internazionale, il terreno è disseminato di trappole, non so, penso gli effetti che potrà avere la recessione annunciata tedesca sulla parte produttiva del nord Italia, e quindi da lì che ripercussioni avrà, per esempio, sulla Lega, si vota in Lombardia tra un anno, però sono anche, devo dire, cose poi... gli esiti elettorali di queste vicende non è che mi appassionano tanto, però quindi mi sembra molto difficile fare previsioni, anche perché poi comunque la Meloni non potrà fare una politica di assoluta continuità col governo Draghi, perché è chiaro che scontenterebbe una parte dei settori che l'ha votata. Mi incuriosisce molto, perché credo, se non sbaglio, che con la Meloni si è chiuso la roulette di tutte le possibili forze politiche che potevano andare al governo, cosa succederà dopo la Meloni, ecco, perché insomma, ma lo dico insomma un po' scherzando, però o si raggiungono livelli di astensione insomma che rafforzano ulteriormente il dato che abbiamo visto a settembre, oppure non riesco veramente a capire cosa possa succedere. No, mi interessa un po', ne hai fatto cenno tu alla questione, però visto che poi noi siamo anche un'organizzazione insomma, di militanti, e per quanto di dimensione molto, molto ridotta, il piano al di là dell'opposizione politica, su cui comunque un minimo di riflessione, perché io credo che il disastroso risultato che hanno conseguito tutte le formazioni, mi ha colpito che il partito di Mastella, che non sapevo neanche che avesse fatto un partito, credo che abbia preso più voti di Ferrando, insomma, però con l'astensione che aumenta di 10 punti percentuali, credo che il risultato in particolare di Unione Popolare, che ho seguito un po' di più perché l'USB in qualche modo si è spesa più del solito in questo senso, sia ancora più disastroso. Però credo che in qualche modo questo risultato è un po'... parla anche a noi, no? E quindi sollecita un po' anche capire qual è il nostro ruolo, quali sono le possibili, perché da quello che vedo io, insomma, nonostante annunci insomma, di uno tsunami dovuto al bolletto, che devo dire che sui posti di lavoro naturalmente io ho una visuale molto limitata, non si vedono segnali di particolare insomma fermento. Mi ha colpito oggi, prendetelo col beneficio del dubbio, perché ho dato solo un'occhiata, mi sembra sia stato chiuso il contratto il rinnovo del gas acqua. È vero che no, insomma, un settore complesso, ma mi sembra che gli aumenti, insomma, nonostante sia un settore che in qualche modo ha beneficiato di tutto quanto accade, siano stati piuttosto modesti, no? Quindi non riesco a vedere una grande attenzione da parte dei lavoratori alla la questione salario, ancora meno salario minimo, eccetera. Quindi grandi segnali non ci sono. Ho visto un'intervista, mi sembra sul Messaggero, non so, su un giornale di Landini, insomma, in cui in qualche modo sì, la manifestazione, però anche il confronto con il nuovo governo, niente barricate, e quel pezzetto che rimane, quel poca cosa che rimane dei sindacati di base, ovviamente ancora prima che venisse eletta la Meloni avevano già proclamato uno sciopero generale per il 2 dicembre con una piattaforma che insomma è quanto di più fantascientifico si possa leggere. E non è un caso che però c'è questo tentativo, l'hai citato tu all'inizio, di buttarsi invece un po' su questa questione del caro bollette, eccetera. Però ecco, mi riesce difficile capire, ed è una cosa un po' di cui mi piace, che tipo di, insomma, che forma prenderà, no? Se mai prenderà una forma, insomma, questo disagio che sicuramente c'è, in qualche modo uscirà, ma insomma, al momento, ripeto, io non vedo, anche mi sembra le manifestazioni che ci sono state, no, rispetto alla questione delle bollette, che mi sembra al momento, poi magari non ho visto bene, però non mi sembra finora abbiano dimensioni, numeri o profondità tale, per esempio, da essere paragonabili a quel po' di movimento che si è visto, che sono questioni chiaramente diverse, con la pandemia, eccetera. Quindi un po' capire quali forme e che cosa noi in questa vicenda, in questa situazione possiamo anche provare, ecco, possiamo fare, ecco, possiamo sicuramente il lavoro, la questione sulla guerra mi sembra centrale, perché è evidente che è il tema da cui dipende tutto il resto, eccetera. Poi naturalmente c'è però anche poi la dimensione appunto di quotidiana, di presenza sui posti di lavoro nel sindacato, per quel poco che è rimasto, che meno per... Quindi mi sembrerebbe utile un po' fare una riflessione su quello, perché ecco, nonostante gli annunci e tutto, sia come opposizione politica, sia come opposizione sociale sindacale, che però non sembra esserci non tanto numericamente un fermento, non sembra esserci né fermento né grandi, come dire, idee o linee o proposte o progetti, e questo mi sembrerebbe un tema su cui ragionare. E grazie, ho concluso. C'è qualcuno? Grazie Maurizio, alzi. C'è qualcuno che deve intervenire? Sì, no, Bruno o Anto Giulio, insomma, uguale. Dimmi te. Cominciamo dai Presidente. Pensionati. Cominciamo dai pensionati. Ok, dai pensionati cominciamo. Sì, io, vabbè, sulle questioni elettorali un po' di cose sono già state dette, quindi il fatto che poi il centrodestra mantiene il suo numero di voti, c'è una scomposizione interna, ma alla fine, diciamo, quello non cambia. Io credo che ci sia però che sarà il problema del nuovo governo, che nei fatti il riferimento del centrodestra, così come di Fratelli d'Italia, sono settori di piccola borghesia, di piccoli imprenditori, di piccolo o media imprenditori. E questo però è in aperta contraddizione rispetto alla guerra, alla crisi economica, alla crisi energetica, perché sarà ben difficile poter rappresentare e difendere gli interessi di questi settori della piccola borghesia da parte della Meloni, della Lega, ma anche della stessa Forza Italia. E questo sarà l'elemento, diciamo, di debolezza, perché è chiaro che il messaggio che poi anche oggi manda manda Confindustria, che è quello che, insomma, gli spazi di manovra sono ben pochi. Il rischio, diciamo, di aumentare il debito è enorme, il rischio che possa ripartire lo spread o che magari, diciamo, tu entri in aperto conflitto con la comunità europea e quindi di mettere a rischio dal punto economico e finanziario l'equilibrio in Italia. Quindi è chiaro che i margini di manovra da parte di questo governo, le contraddizioni potranno esplodere, e questo credo che, nonostante la, diciamo, la maggioranza ottenuta in Parlamento, poi alla fine sono, diciamo, i rapporti di forza concreti e, diciamo, la possibile, anch'io ho letto quello che ha detto Maurizio prima, questa cosa, diciamo, di possibile crisi finanziarie all'interno del sistema bancario. Quindi, insomma, gli elementi di contraddizione sono tanti, e quindi alla fine o questo governo, diciamo, si adatta e segue gli input che ha già dato Draghi, che comunque darà all'Europa, oppure se non lo fa si aprono grandi problemi. Però il problema, per certi versi, è appunto questo, diciamo, ciò che rappresenta la vista sociale questo governo. Oggi, di fronte a questa situazione, che cosa dovrebbe fare una sinistra, un sindacato, un'organizzazione politica? Alzare la bandiera dell'interesse del proletariato e della propria classe, e quindi di fronte, diciamo, all'esplodere di queste contraddizioni che possono manifestarsi in tanti modi. Cioè, Maurizio diceva che cosa succederà nei prossimi mesi rispetto alla crisi energetica, alla crisi economica, all'aumento del costo della vita, eccetera. Può esplodere in tanti modi, quindi dai forconi oppure da manifestazioni più di classe. Però per farlo oggi bisognerebbe alzare, appunto, la bandiera degli interessi della propria classe e del proletariato. Però qui esce fuori l'altro elemento di contraddizione, che, se volete, si lega alla necessità di rivendicare, di presentare il documento che è stato scritto partendo dalla vicenda della guerra, partendo dalle vicende dell'internazionalismo, ma che alla fine, come diceva Piero, ha un elemento sempre legato a che cosa rappresenti dal punto di vista di classe e socialmente. Quando nel documento alla fine diciamo che ci sono settori del movimento trotskista, dell'estrema sinistra, che ormai guardano anch'essi alla piccola borghesia, e ci troviamo di fronte allo stesso problema. Diciamo che quella bandiera che oggi dovresti alzare, per difficile, perché ha ragione Maurizio, non è che c'è questa tensione sociale sulla questione del bisogno di salario, però in qualche modo potrà esplodere, e in ogni caso dovresti comunque oggi alzare quella bandiera. Il problema è che né il sindacato in generale, quindi non solo la CGIL, ma mi sembra tutto il sindacalismo, sia in completa crisi, perché o passa dalla nullità della CGIL oppure diciamo dall'estremismo parolaio, che poi arriva allo sciopero generale con magari una piattaforma in cui, insomma, c'è tutto e al contrario di tutto, e quindi alla fine diventa inconcludente anche quello. E anche dal punto di vista politico, perché alla fine tu non sei in grado, perché dal punto di vista politico, dell'analisi internazionale, dell'analisi economica, dell'analisi sociale, ciò che tende a rappresentare, appunto, è l'interesse di settore di piccola borghesia, magari intellettualmente diversi da quello che può rappresentare la Meloni, ma che alla fine ti rendono assolutamente incapace di affrontare una situazione di questo tipo. Quindi noi vivremo dentro questa grande contraddizione, che c'è una situazione economica e sociale spingerebbe a una radicalità e a una rappresentanza dei bisogni della propria classe, ma da un lato ci sarà la crisi o gli elementi di crisi che possono venire da chi oggi gestisce in Italia il governo, ma gli stessi elementi di difficoltà potresti averceli anche in settori dell'estrema sinistra o del sindacato, incapace di appunto alzare questa bandiera, questi interessi della propria classe e non di una generica, diciamo, bisogno collettivo della società italiana, dei bisogni dei cittadini o cose di questo tipo, perché anche dire appunto che c'è l'aumento delle bollette senza definire che non è un aumento che non sarà uguale per tutti, che non peserà allo stesso modo, credo che anche questo sarà uno dei grandi problemi che avremo nella prossima fase. E per questo ancora di più il documento che abbiamo messo giù non ha solo un'importanza rispetto alla questione della guerra e una visione internazionale, ma anche l'importanza nella battaglia concreta rispetto a qual è la tua classe sociale a cui tu fai riferimento, in cui ti muovi a livello sindacale, a livello sociale, a livello politico nazionale e internazionale, e quindi determina i tuoi comportamenti. E credo che anche questo dovrebbe essere un modo di presentare il nostro documento. Quindi non è solamente il dire che noi siamo contro tutti gli imperialismi, certamente questo è fondamentale, ma questo deriva dal fatto che noi abbiamo un punto di vista di classe e questo ci permette di analizzare la guerra, di analizzare, diciamo, quindi come gli atteggiamenti dei vari imperialismi e di analizzare quello che succede appunto in casa nostra dal punto di vista sociale ed economico. Questo credo dovrebbe essere un po' la nostra bussola su cui affrontare la prossima fase, perché vedo che in tutto questo mondo della sinistra, dell'estrema sinistra, passi dalla paura del fascismo o solamente una discussione sui diritti e non dal punto di vista di classe su come, che cosa affronti e come deve affrontare la prossima fase. Questo credo che sia l'elemento più pericoloso. E quindi, insomma, mi sembra che il problema di chi rappresenta che cosa, di chi rappresenti, valga per il centrodestra, ma valga anche in casa nostra. Grazie Bruno. Anton Giulio. Sì, brevissimamente, perché tanto tante cose sono già state dette. Rispetto al discorso delle elezioni, appunto, tante cose sono già state dette, le condivido, nel senso che io credo che, però dal nostro punto di vista interessa capire, diciamo, per quanto è possibile naturalmente, se un governo, come quello della Meloni, può risolvere qualche problema alla borghesia nostrana. E da questo punto di vista io francamente non sono molto convinto, nel senso che c'è ormai, diciamo, una separatezza fra la sfera politica, in cui è sempre più difficile leggere una diretta chiave di rappresentanza o un settore chiaramente sociale rappresentato all'interno di questa sfera politica, che ormai si è quasi, diciamo, autonomizzata rispetto al resto, diciamo, e anche agli interessi che in teoria dovrebbe rappresentare. Non c'è più un legame meccanico fra questo o quel settore sociale, questo o quel partito che se ne fa in qualche modo portavoce. Lo abbiamo detto già tante volte, diciamo, le elezioni sono sempre di più quasi un sondaggio d'opinione più che in realtà un'effettiva, diciamo, tentativo di costruire, diciamo, ripeto, una propria rappresentanza politica vera e propria. Anche gli stessi partiti per come sono costruiti, i sistemi elettorali per come sono costruiti, sono sempre più, diciamo, lontani e in qualche modo, diciamo, separati dalla società reale che dovrebbero in qualche modo rispecchiare e rappresentare. Insomma, ormai in tutte le elezioni almeno 10 milioni di elettori cambiano partito, cambiano voto. È una massa, diciamo, in cerca, diciamo, di un'identità o che comunque è soggetta ai messaggi mediatici, è soggetta a pulsioni, diciamo, di cambiamento un po' senza neanche molta coscienza di che cosa questo significhi, che di volta in volta si sposta su quello che appare essere la novità del momento, insomma. Però è un problema anche per la borghesia questo. Intanto perché secondo me la grande borghesia ormai gioca le sue partite, i suoi interessi un po' al di fuori dei confini nazionali, quindi tutto sommato anch'essa si è un po' autonomizzata rispetto ai quadri politici dei singoli paesi. Esistono ormai organismi internazionali e sovranazionali in cui effettivamente, diciamo così, certe istanze vengono discusse e risolte, insomma, più o meno indipendentemente dalla rappresentanza politica e parlamentare. E poi c'è questo settore, l'avete già detto, di piccola e media borghesia, tenendo anche presente l'aspetto demografico, perché è chiaro che una società che invecchia è sempre meno disponibile, diciamo, a cambiamento nel senso progressivo, progressista del termine, no? È chiaro, una spinta alla conservazione è anche un fatto demografico, no? Quindi anche questo gioca poi all'interno della partita elettorale, che secondo me, per citare, è sempre più lo specchio deformato, nel senso che, appunto, ripeto, è sempre più difficile leggere nelle scadenze elettorali un segnale sociale preciso, una volontà sociale precisa. D'altra parte non si spiegherebbe perché nell'arco di 5-6 anni si sono bruciati Draghi, Monti, insomma, comunque persone che da un punto di vista degli interessi della borghesia, se vogliamo ragionare in termini, diciamo, meccanicisti, erano loro i migliori garanti, o in teoria sarebbero stati loro i migliori garanti, no, della difesa di certi interessi. Il fatto che non abbiano retto poi all'interno dei meccanismi parlamentari, partitici, eccetera, eccetera, è indicativo comunque di una crisi, che secondo me non è risolta neanche col governo Meloni. Poi, naturalmente, ci sarà il 100 giorni, la luna di miele, ci saranno tutta una serie di questioni che abbiamo già visto. Però, ecco, se la preoccupazione è che, appunto, ci sia un governo che è in grado di in qualche modo tenere, tutelare e difendere una classe contro l'altra rispetto a lo sconvolgimento che stiamo vivendo, secondo me non è il governo Meloni che è in grado di farlo. Che cosa succederà? Io francamente non riesco, da un punto di vista sociale è molto difficile, insomma, può anche darsi che domani mattina tirino una bomba atomica da qualche parte, è un'opzione che è sul campo, non è una cosa così tanto astratta. Quindi siamo in una situazione veramente in cui le cose possono precipitare dall'oggi al domani, anche da un punto di vista sociale, perché da un lato è vero che in Italia esiste, appunto, una ricchezza privata enorme, e quindi chiaramente questo è un serbatoio a cui le famiglie, naturalmente non tutte, però una buona parte anche della piccola e media borghesia ha dei patrimoni a cui può attingere, che sicuramente almeno inizialmente possono mettere al riparo dai contraccolpi più duri anche di una crisi energetica. Però ci sono dei settori che questi ombrelli non ce li hanno, e quindi naturalmente da lì, così come, appunto, si citavano i forconi, si citavano anche settori di piccola media impresa, agricoltori, eccetera, eccetera, che in effetti possono cadere in rovina e possono dare vita a fenomeni anche di ribellione sociale. Difficile, quasi impossibile fare delle precisioni, delle previsioni in questo momento. dovremmo seguire la situazione così com'è, giorno per giorno, cercare di fare le nostre valutazioni di volta in volta. Su che cosa dobbiamo fare, su che cosa stiamo facendo, un po' qualche compagno l'ha già detto, con le nostre forze, insomma, in questi mesi abbiamo sicuramente ampliato la nostra rete di, insomma, di conoscenze, e reciprocamente, diciamo, abbiamo conosciuto, anche incontrato anche altri compagni, altre compagne nel nostro lavoro. Quindi intanto non abbiamo fatto cazzate, che non è poco, nel senso che secondo me, diciamo, è già buono, ecco, nel senso, vedendo quello che succede a tutto il resto della cosiddetta estrema sinistra, dovremmo già essere, penso, soddisfatti del fatto di non aver inseguito appunto gli schieramenti sulla guerra, di non aver inseguito pseudo cartelli elettorali di cui sapevamo già il destino e l'inefficacia e insomma tante cose. Quindi già secondo me dobbiamo essere soddisfatti, e che significa anche che in qualche modo abbiamo una base, una struttura e un modo di leggere la realtà che è efficace, insomma, ci aiuta. L'altra questione è il documento e gli strumenti che ci siamo dati, quindi la newsletter, tutta una serie di cose che piano piano, almeno da quello che possiamo verificare, lo stesso libro è stato un'occasione ed è tuttora un'occasione, appunto, per farci conoscere, allargare la nostra rete, e quindi in qualche modo, diciamo, andare avanti con un lavoro che sicuramente è quello che è, sulla base delle nostre forze, però comunque comincia in qualche modo lentamente a produrre anche dei risultati, insomma, da questo punto di vista. Ecco, quindi credo che di più e altro, se noi riuscissimo effettivamente a definire un campo, che poi questo è il nostro tentativo, definire un campo, entrando in contatto anche con altre associazioni, altre organizzazioni, altri soggetti, comunque definire un campo che rispetto alla guerra, rispetto alle questioni sociali, eccetera, appunto, rispecchi in qualche modo il nostro metodo, il nostro orientamento, ed è disponibile anche a fare delle iniziative, secondo me sarebbe già un grossissimo risultato. Quindi vediamo adesso nei prossimi giorni come maturano queste relazioni che abbiamo costruito, se riusciamo ad arrivare appunto a questa assemblea, questa riunione, insomma, più allargata rispetto al tema della guerra, inteso come anche diceva Bruno, insomma, naturalmente in generale, con tutte le sue ripercussioni, è già un piccolo salto, insomma. Dopodiché mi sembra che appunto gli strumenti che stiamo utilizzando sono quelli che riusciamo a sostenere e che comunque riescono in qualche modo ci consentono ancora oggi di allargare un pochettino il nostro orizzonte. Grazie Anton Giulio, altri compagni? Voglio dire una cosa molto breve. Io parto da un ragionamento personale. Mi è capitato di parlare con gli amici prima delle elezioni, e c'erano molti che avevano, come dire, dicevano com'è difficile votare, com'è difficile scegliere, no? E personalmente non riuscivo a capire questa cosa. Meglio, gli dicevo, ma dipende da cosa ti aspetti dalle elezioni, cosa pensi che possa cambiare qualcosa o no. Quindi chi è andato a votare o chi non è andato a votare, poi alla fine non è che può vedere, può aver visto, diciamo, qualcosa di sostanziale, di cambiamento in queste elezioni, che sono andate come ci aspettavamo tutti quanti. Però una cosa mi ha un po' come sorpreso, cioè l'aumento dell'astensione, per un motivo, perché essendo in una situazione che comunque, insomma, in una guerra ormai conclamata da marzo, con anche dei peggioramenti, no? Delle condizioni, un'escalation continua, eccetera. Ecco, mi aspettavo che magari qualcuno potesse rifugiarsi nelle elezioni nella speranza di vedere qualche cambiamento nelle politiche in questo senso. Invece sembra che anche questo non abbia portato a nulla. Magari sono ingenuo, non lo so. Perché poi è chiaro, mi sembra che il discorso della crisi dei corpi intermedi, no, della società è ormai pluridecennale, quindi come la vivono i sindacati, l'abbiamo vissuta quando facevamo la rappresentanza, e nella stessa maniera c'è questa crisi dei partiti. E io avevo letto dopo le elezioni amministrative di come cioè non c'è quasi più necessità di avere un partito alle spalle, ci sono delle piattaforme che hanno portato attivisti a essere eletti, che ti aiutano, la piattaforma si chiama Io mi candido, un'altra si chiama Fanta Politica, che hanno per esempio portato quella ragazza che è stata eletta a Verona, che ha preso una montagna di voti nella lista di Damiano Tommasi, e anche a Genova un'altra ragazza che era stata eletta, tutti attivisti e sempre presenti. Quindi voglio dire, non servono più i partiti, quantomeno si era visto in maniera evidente nelle elezioni amministrative. Qua nelle elezioni politiche la situazione è profondamente diversa. Questo aumento ancora in questa situazione dell'astensionismo mi fa pensare che è ben lontana da passare questa crisi, appunto, cosiddetta crisi dei corpi intermedi, e quindi la crisi del partito come istituzione, come punto di riferimento e anche come luogo di confronto, luogo di incontro e di sviluppo di magari modelli di società, modelli di vita, ecco. Era solo questa la considerazione che volevo fare, perché poi per il resto l'analisi è stata fatta a 360 gradi, poi io non mi permetto nemmeno, non sono in grado assolutamente di fare previsioni su quello che succederà, quindi mi fermo qui, ecco, non ho granché da aggiungere. Grazie Marco, altri compagni? Allora, se non ci sono altri compagni, dico due cose io, perché diciamo sono state poste diverse questioni interessanti e quindi mi sembra doveroso, diciamo, provare un po' a rispondere ad alcuni di questi temi. Parto da questo che ha sollevato Marco, e devo dire che a me in realtà non stupisce molto che la questione della guerra non abbia, diciamo, determinato una tenuta dell'affluenza alle urne e non sia stata un argine all'astensionismo, perché in realtà, diciamo, sulla questione della guerra in questi mesi, diciamo, si è registrata una compattezza straordinaria quasi dell'intero arco costituzionale, cioè volendo pensare, diciamo, sforzarsi di trovare qualche possibile riferimento per una battaglia tra virgolette pacifista nelle elezioni che si sono celebrate pochi giorni fa, e penso che, diciamo, il punto di riferimento più credibile forse poteva essere il Movimento 5 Stelle, che però, diciamo, ha votato tutti gli invii delle armi, la spesa militare al 2%, persino l'intitolazione della giornata degli alpini nell'anniversario della battaglia di Nikolaevka, diciamo, l'invasione fascista della Russia. Quindi poi, certo, come diceva anche Piero, poi Conte è stato molto abile nel presentarsi appunto come un descamisado, come ha detto argutamente De Luca, però insomma è chiaro che lui era il più credibile, ma era molto poco credibile. Frattogliani, che pure aveva votato contro la spesa militare, l'invio delle armi, però si è presentato in coalizione col PD, quindi diciamo non era. Ma d'altra parte, se prendiamo anche Unione Popolare, che pure formalmente, voglio dire, ha fatto una battaglia su posizioni corrette, eccetera, eccetera, però ci sono state alcune cadute di stile in campagna elettorale eclatanti. Io ho polemizzato sul fatto che questi si sono scappellati perché hanno avuto l'endorsement di Ziz, che è questo intellettuale sloveno che è, diciamo, da febbraio è in prima linea nella battaglia contro il movimento pacifista e contro chiunque a sinistra non si schieri con la NATO, ma lo stesso Mélenchon è stato mandato in televisione da De Magistris e, parlando a nome suo di De Magistris, ha ripetuto le cose che dice in Francia, cioè posizioni estremamente ambigue sulla guerra, perché all'interno del suo stesso partito, France Insoumise, diciamo, non sono d'accordo sulla posizione da assumere sull'Ucraina, e quindi lui deve mediare all'interno del suo partito e poi deve mediare con tutti quegli altri gruppi e gruppuscoli che stanno in questo contenitore elettorale che hanno messo in piedi. E quindi, come dire, nella stessa Unione Popolare, diciamo, si sono candidati o comunque hanno sostenuto questa lista, diciamo, figure che, con tutti i loro limiti, però diciamo si sono esposte anche in modo generoso, diciamo, contro la guerra, penso ad Orsi, alla Donatella di Cesare, ma anche personaggi che invece hanno preso posizioni, diciamo, assolutamente ambigue. D'altra parte, quando io ho fatto notare pubblicamente queste cose, non so, a Giorgio Cremaschi, alla Eleonora Forenza, eccetera, eccetera, tutti mi hanno risposto: no, ma io ho preso la posizione corretta, e testimoniando che appunto avevano preso delle posizioni personali, ma non si sentivano di certificare che quella era la posizione di Unione Popolare. No, rispetto al resto, io allora intanto sono d'accordo con quello che diceva Bruno sul problema della piccola borghesia, e quello secondo me è effettivamente il problema che c'ha la Meloni, per quello che io accennavo a un potenziale ruolo destabilizzante di Salvini, perché Salvini, che è quello che ha subito le conseguenze del passaggio di un pezzo consistente di questa piccola borghesia del nord con la Meloni, e che quindi, diciamo, è in qualche modo cerca di rivincite, è chiaro che sulla questione delle sanzioni, se la situazione precipita, ha uno spazio politico grande come un'autostrada, e anche, come dire, con una difficoltà dei vari Giorgetti, Zaia, Maroni, Bossi a richiamarla all'ordine, perché un conto è richiamare all'ordine Salvini quando fa l'estremista o spara cazzate sulla questione dell'immigrazione, ma sulla questione delle sanzioni quella è una cosa che parla alla loro base sociale, e quindi questo effettivamente potrebbe avere delle conseguenze devastanti, diciamo, dal punto di vista del governo. E proprio per questo io sono d'accordo con Bruno sul fatto che bisognerebbe alzare la bandiera degli interessi di classe, perché l'episodio che raccontavo prima, cioè una proletaria che va a votare per difendere le piccole imprese, sono la dimostrazione, diciamo, della vittoria propagandistica della piccola impresa, che in qualche modo è riuscita persino con tutta questa logica che da 30 anni del piccolo e bello, che le piccole e medie imprese sono il tessuto sano dell'economia italiana, eccetera, eccetera, e alla fine la piccola borghesia riesce a diventare egemone anche in settori di proletariato, cioè una cosa, diciamo, una catastrofe peggiore per la sinistra, diciamo, non si può immaginare. Mi ricordava, diciamo, le discussioni che facemmo con Nichi Vendola all'epoca del congresso di Venezia in rifondazione, quando c'era qualcuno, tra cui lui e Fratoianni, che teorizzavano che avere un'identità, diciamo, significava essere svantaggiati, che quindi la soluzione era, diciamo, liquidare definitivamente la propria identità. In questo Maurizio poneva un problema che è centrale, cioè qual è il ruolo che possiamo giocare noi? Beh, intanto io penso, e sono d'accordo con, l'hanno detto sia lì che Bruno, che la questione centrale è la questione della guerra, perché questo sarà, diciamo, il fattore determinante di tutto quello che succederà, diciamo, nei prossimi mesi, se non nei prossimi anni. E però, diciamo, uno degli aspetti su cui credo che dobbiamo insistere è il nesso tra la guerra e la questione sociale. Cioè, oggi, per dire, se ci fosse un sindacato, diciamo, che dovrebbe dire no all'aumento delle spese militari, vogliamo più sanità, più scuola, più dipendenti pubblici, più salario, eccetera, eccetera, e più pensioni. Ecco. Questo, secondo me, è, diciamo, il terreno centrale su cui dobbiamo provare a intervenire. Poi, come, in quali ambiti? Questo è difficile dirlo, perché senza essere in grado di prevedere, diciamo, che cosa succederà, e anche non avendo noi, come dire, no, un insediamento sociale capillare sul territorio, è difficile dirlo. Credo che dobbiamo essere anche bravi, come dire, accogliere qualche occasione. Faccio qualche esempio. So, ad esempio, Marco Bellicano sa, perché gli ho telefonato, ci siamo sentiti l'altro giorno. L'altro giorno ho pubblicato sulla pagina di Salario Minimo questo volantino che aveva fatto l'Orsa, che credo abbia scritto Marco, l'Orsa sindacato, diciamo, l'ex Comun, sindacato dei macchinisti. No, non l'ho scritto io, te l'ho detto, l'ha scritto Giorgio Pischeda, che è quello... Giorgio Pischeda, sì, che però è un abbonato, diciamo, appunto... Sì, gli avevo regalato l'abbonamento, sì. L'ho pubblicato sulla pagina del Salario Minimo, mi ha contattato il segretario nazionale dell'Orsa, che tra l'altro conosco anche, dicendo, mandandomi un documento che avevano approvato a livello nazionale, che tra l'altro, Marco, avevo detto che ti avrei mandato, mi sono dimenticato, adesso me lo scrivo, se no ricordamelo. Va bene. E dicendo, siamo a disposizione per qualunque cosa, no? Con Marco dicevamo, magari, non so, si potrebbe pensare che se hanno voglia di organizzare 2 o 3 dibattiti in qualche città dove sono, si potrebbe fare. Io, ad esempio, una delle cose su cui stavo riflettendo, poi magari ne parleremo un po' in modo più dettagliato, perché c'ho qualche contatto anche qua nelle scuole a Roma, è che secondo me si potrebbe provare, visto che ci abbiamo bisogno anche, come dire, un po' di raccattare qualche giovane, che uno dei temi su cui si potrebbe provare a fare qualcosa è questa questione dell'alternanza, perché al terzo morto in un anno, al terzo studente morto, diciamo, in uno di questi stage scuola-lavoro, insomma, mi pare che di capire che la cosa, almeno qui a Roma, diciamo, abbia avuto un impatto, come dire, abbastanza forte. E in più, da quello che capisco, che mi dice mia nipote, che fa il secondo anno qui al Virgilio, con una discussione anche interessante, perché mentre gran parte dell'estrema sinistra, anche dei sindacati di base, reagisce a questa cosa chiedendo l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, c'è qualche studente, tipo lei, che invece si rende conto che è una cazzata. Cioè, il problema non è abolire l'alternanza scuola-lavoro, che potrebbe avere, come dire, anche aspetti positivi anche per noi, diciamo, da un punto di vista politico-sindacale, ma è quello di fare una battaglia studenti e lavoratori insieme, perché nei posti di lavoro non si rischi la vita. Quindi, ad esempio, su questa cosa io proverei, diciamo, nei prossimi mesi a provare a uscire con qualche iniziativa. Io pensavo, ad esempio, a un podcast, riciclando un po' di materiale che abbiamo pubblicato sulla newsletter, e potrebbe essere una cosa abbastanza interessante. E, ovviamente, poi non so, abbiamo fatto queste iniziative su Amazon, ad esempio questa iniziativa che ho fatto con la CGIL sabato, c'erano 70 lavoratori, diversi delegati, diciamo, dei magazzini Amazon di tutto il Lazio. Può darsi che, diciamo, la cosa abbia un seguito. Su questo anche nei mesi passati abbiamo raggranellato un po' di contatti nuovi, anche qualche giovane, tra cui questo, diciamo, 23enne che sta qui a Roma, che ho già incontrato e che probabilmente potrebbe cominciare a collaborare. È venuto anche un altro compagno a questo convegno che sta qui vicino a Castelnuovo di Porto e che era venuto anche a fare il banchetto, a vendere i libri alla presentazione del libro, quindi di fatto, insomma, lo possiamo considerare, no, è abbonato, quindi io pensavo anche di invitarlo a questa assemblea che faremo online sulla guerra. Quindi credo che, diciamo, questi siano un po' gli ambiti, così come con questo lavoro su Amazon parlavo con Mauro Giacobbe, che è questo amico mio di Bruno, diciamo, ed insomma, che sta a Perugia e che ha organizzato la presentazione del libro a Perugia. Gli ho mandato il video su questo convegno, era molto interessato e stavamo riflettendo sul fatto che si potrebbe organizzare un'iniziativa lì con la redazione di Micropolis, che è quella che aveva organizzato la presentazione del libro, che magari si potrebbe anche provare a fare un'inchiesta su Amazon in Umbria, visto che c'è un magazzino che è aperto da poco, quindi ci sono dei lavoratori. Quindi queste, diciamo, sono secondo me le cose che possiamo fare, sapendo che noi, Gino lo diceva perfettamente nel suo intervento, siamo l'espressione di una debolezza, cioè del fatto che non c'è un partito. E, diciamo, noi sicuramente possiamo vantare, come diceva Anton Giulio, di insomma, non aver fatto le cazzate che hanno fatto altri, di aver tenuto delle posizioni, però è chiaro che in qualche modo non siamo esentati dagli effetti di questa sconfitta, anche se magari ne abbiamo meno responsabilità. Il senso di tutti questi lavori che stiamo facendo, di queste relazioni che stiamo costruendo, che diceva anche Anton Giulio, è che anche il senso per cui stiamo cercando, come dire, di utilizzare questa deriva, diciamo, del movimento trotskista per costruire intorno a noi, diciamo, se non un'area di militanti, almeno un'area, diciamo, di interesse, di gente potenzialmente interessata a interloquire con noi, e quindi tenendo anche relazione con questi gruppi che dicevo e con questi anche esponei, queste organizzazioni, diciamo, della diaspora, del CWI, con alcune di queste, è cercare, visto che le nostre forze sono limitate, di costruire una rete che ci permetta di intervenire magari insieme ad altri su alcune cose su cui siamo d'accordo e di quello che succederà nei prossimi mesi, in particolare a livello italiano, ma se possibile, diciamo, magari un po' anche con qualche contatto a livello europeo, sapendo che non abbiamo le forze per, come dire, dirigere gli eventi nella direzione che noi vogliamo, perché su questo bisogna essere realisti e cercare di evitare di essere velleitari, ma che se vogliamo cercare comunque di non rimanere un piccolo gruppo, l'unico modo è quello di cercare di mettersi in gioco, provando a intervenire nelle cose che ci sono, portando, come dire, la nostra visione del mondo e le nostre proposte. E da questo punto di vista, diciamo, anche questa collocazione che ci siamo data, meno da, appunto, gruppo politico rivoluzionario trotskista eccetera eccetera, ci permette, lo abbiamo visto anche ad esempio nella presentazione dei libri, di interagire, di collaborare con realtà e gruppi anche molto diversi tra loro in modo, diciamo, vantaggioso. Quindi quello che possiamo fare, credo che sia questo, cioè utilizzare questa situazione come una palestra per provare a mettere in campo un intervento, diciamo, proporzionale alle nostre possibilità e possibilmente agganciare qualche giovane e insegnargli a fare, diciamo, le cose che abbiamo imparato a fare noi, diciamo, nei nostri anni di militanza politica. Questo è, credo, quello che possiamo fare, insomma. Quindi spero di aver risposto in particolare alla domanda che poneva Maurizio. Detto questo, quindi, siccome come ho detto prima, abbiamo davanti a noi due appuntamenti, uno più interno e uno, se si riesce appunto a metterlo in cantiere, che coinvolgerà, diciamo, anche altri soggetti, ma non siamo ancora in grado, diciamo, di fissare le date. Diciamo che al più presto, appena abbiamo un quadro più preciso della situazione, ci mettiamo in contatto per comunicare le date, eventualmente anche per fare delle riunioni più di carattere organizzativo o preparatorio, se è il caso, insomma. Niente, poi chiederei a Marco se ha fatto la registrail, così lo faccio avere a Simone e eventuali altri compagni che non sono riusciti a partecipare, e se non ci sono altre cose direi che ci possiamo salutare.